Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo ancora di crisi economica. Il governo ieri ha presentato i progetti alle parti sociali, si appresta venerdì ad approvare queste misure, misure importanti, misure che sono condivise anche da altri paesi. Tutti stanno guardando un po' le possibilità di azione per affrontare questa crisi che si sta appunto allargando all'economia reale, come rilanciare la fiducia, come rilanciare la competitività delle imprese, come rilanciare il circolo virtuoso dell'economia che è fatto di domanda, di crescita, di posti di lavoro, di occupazione. Ne parliamo oggi con Stefano Micossi. Buongiorno Micossi. Micossi è direttore generale di Assonime, l'associazione che riunisce le società per azioni, ed è docente di economia internazionale a Bruges. Quindi Assonime è un po' una società che raccoglie le grandi imprese, soprattutto non tanto da un profilo sindacale, cioè non ruba investire a Confindustria, ma da un profilo di rappresentanza più strutturale. Micossi? Anzitutto non solo le imprese manifatturiere, ma la banca, la finanza, i servizi, quindi tutte le società di capitali. In secondo luogo un servizio, un'assistenza di tipo piuttosto tecnico, l'applicazione delle leggi, l'interpretazione delle norme, la partecipazione ai processi di formazione delle norme. Ecco, allora da questo osservatorio come si vedono le imprese, quali sono le necessità maggiori in questa fase per le imprese? Si è parlato di una necessità di ridare fiato al credito, di una stretta al credito proprio per le difficoltà delle banche, del sistema finanziario, della necessità di sostenere anche la domanda per ridare appunto fiato ai consumi e quindi alla produzione. Da parte delle imprese qual è la visione di priorità sulle misure da adottare? Ma credo che nell'immediato ci sono due cose urgenti, importanti. La prima naturalmente è sostenere in ogni modo la domanda di consumi, e credo che il governo stia valutando una serie di provvedimenti utili, vedremo quante risorse saranno disponibili. Bisogna sostenere gli investimenti, ma questo deve farlo, è spesa pubblica. Il problema è quando si parla di progetti di investimento, le procedure sono complicate, i tempi di spesa sono lenti, quindi qui c'è l'esigenza di accelerare, spendere quello che si può spendere subito, e quindi più del nuovo grande progetto, quello che è già approvato ma che si è fermato perché mancava il denaro. Le opere di manutenzione straordinaria, di scuole e ospedali, per i quali spesso le risorse ci sono ma non vengono utilizzate. Una strategia di efficienza energetica che può essere accelerata, anticipata, si possono applicare meglio e più severamente le norme europee già in essere, e questo si può spingere i consumatori, per esempio, a incitarli a sostituire i loro beni durevoli, si può migliorare la gestione dei rifiuti, si può migliorare l'efficienza energetica delle case, e anche questo sarebbe un contributo al settore delle costruzioni, un altro settore molto importante per l'occupazione. Ecco, dunque, diciamo c'è un problema che... di domanda. Un problema di cogliere anche questa crisi come un'opportunità in fondo, e in cui mi sembra di capire non c'è solo un problema di mettere delle risorse finanziarie a disposizione per riavviare la domanda, ma forse è anche soprattutto una possibilità di migliorare le procedure, di ridurre il gioco delle competenze e soprattutto il diritto di veto, di dare la possibilità alle amministrazioni di aprire i cantieri in maniera più rapida, senza passare attraverso tutti quei gradi di consenso che forse sono stati eccessivamente espansi negli ultimi anni. Cioè ci sono dei progetti, dei grandi progetti che sono pronti, pensiamo alla Pedemontana, alla Brebemi, altri che si stanno realizzando con un po' a fatica, che però vedono ancora dei cantieri chiusi. Io ricordo agli ascoltatori il numero verde 800 24 00 24 per le vostre telefonate, ma Stefano Micossi, vorrei proprio su questo fronte. Allora, è un problema soprattutto di procedure che potrebbero essere sbloccate, ma di questo si parla poco forse a livello politico. No. No, io credo che di questo oggi ci sia buona coscienza, credo che la discussione che si sta facendo è quella giusta. C'è una seconda questione che non va sottovalutata, perché dopo tutto il motore della crisi è finanziario, è la questione del credito, la questione della liquidità delle imprese. Noi vediamo, non vediamo ancora nei dati aggregati una forte stretta liquidità, ma si stanno moltiplicando i sintomi di un restringimento del credito. Ci sono molte imprese che denunciano difficoltà perfino a rinnovare il castelletto dello sconto, il credito commerciale. E bisogna capire che se alle difficoltà di domanda si aggiunge il soffocamento del credito, avremo grandi guai. E quindi una seconda questione è cosa si può fare perché le banche mantengano i flussi di credito alle imprese in un momento che anche per loro non è facile. Da questo punto di vista ci sono già misure approvate dal governo che però mancano ancora dei regolamenti attuativi. C'è una misura che è la concessione della garanzia dello Stato a tutte le nuove emissioni di obbligazioni raccolta delle banche. Una misura importantissima perché molte di queste obbligazioni stanno scadendo e oggi il mercato privato non è disponibile a rifinanziare queste obbligazioni se non a costi molto elevati e in alcuni casi non è disposto affatto a rifinanziare. Allora quella misura di garanzia è essenziale perché riattiva la raccolta delle banche a medio termine. Poi forse bisogna riflettere sui modi per smobilizzare, per rendere liquidi gli attivi delle banche. E anche qui ci sono cose che si possono fare. Il primo punto è in America la Federal Reserve ha dato sostanzialmente il suo diretto sostegno al mercato della carta commerciale. In Italia il mercato della carta commerciale sostanzialmente non c'è, ci sono i crediti bancari. Dobbiamo riflettere sull'idea di cartolarizzare questi crediti, trasformarli in pool di crediti negoziabili e offrire la garanzia dello Stato e portarli alla facility di scambio di titoli che già esiste presso la Banca d'Italia o scambiarli direttamente presso il Tesoro con titoli di Stato, in modo che poi le banche prendono questi titoli di Stato e li possono scontare alla BCE, alla Banca Centrale Europea contro liquidità. Ecco, questa sarebbe una misura che non costerebbe, non peserebbe sui costi pubblici, ma darebbe una garanzia dello Stato, ma in cambio del fatto che le banche diventerebbero più, avrebbero più possibilità di offrire credito alle imprese, quindi si rimetterebbe maggiormente in circolo appunto il flusso di denaro con questa garanzia statale. Ecco, che cosa si oppone in questa fase a misure di questo tipo? Dunque, la misura di cui io parlo è già sostanzialmente prevista nel decreto 157 che il governo ha approvato, mi sembra, il 13 ottobre scorso. Si tratta di farlo, un po' meno di vischiosità, diciamo la disponibilità ad affrontare con più determinazione qualche questione regolamentare, procedurale, questa è una cosa che si potrebbe fare in poche settimane. Ce n'è un'altra che è molto importante. Le imprese vantano, si dice, 60, forse 70 miliardi di euro di crediti verso la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione oggi non ha le risorse in larga parte per accelerare i pagamenti, forse un po' si possono accelerare i pagamenti, ma non ci possiamo illudere che possano pagare questa somma entro tempi abili. Allora anche in questo caso si potrebbe pensare di tornare a un meccanismo che già esiste per lo sconto dei crediti delle imprese per il rimborso IVA e generalizzarlo a tutti i crediti verso la pubblica amministrazione. Si tratterebbe cioè di ottenere dalle pubbliche amministrazioni debitrici un documento che riconosce il debito e questo documento poi scontarlo presso le banche commerciali e consentire a queste di nuovo di portare questi certificati di debito allo scambio di titoli presso la banca centrale. Di nuovo, mettendo dentro il sistema titoli liquidi al posto di titoli illiquidi, dando alle imprese la liquidità di questi crediti immediatamente. Anche questa è una misura suscettibile di allentare la tensione sul credito immediatamente. Misure che appunto non graverebbero eccessivamente sui conti, anche perché anche i crediti che lo Stato dà ha per l'impresa comunque deve onorarli prima o poi e dovrà comunque onorarli, e quindi anticipare la possibilità da parte delle imprese di avere la disponibilità di questi fondi o in tutto in parte è certamente qualcosa che può aiutare a riavviare la domanda. Sentirei Roberto da Parma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. L'intervento dice... Secondo me c'è un qualcosa di molto semplice da fare. Questa semplicità è dare la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti di recuperare l'IVA. Il lavoratore dipendente prepara i suoi bei scontrini, si presenta al datore di lavoro, li presenta a fine mese al datore di lavoro, l'IVA viene rimborsata e lui si trova il 20%, il 10% di quello che sicuramente spende, perché i suoi 1000 euro li spende tutti e si ritrova 200 euro da spendere ulteriormente, su cui pagare tasse, emersione del nero e quant'altro collegato a questo. Potrebbe essere una soluzione estremamente semplice e percorribile. Potrebbe essere l'uovo di Colombo, però allora a questo punto ci si può chiedere, mi scusi, ma cosa serve l'IVA se poi viene rimborsata? Se uno la paga e poi la rimborsa, l'imposta perde la sua efficacia. Stefano Bicossi. Sì, il punto essenziale è che alla fine l'IVA è un'imposta che cade sui consumatori. Se io gliela restituisco, chi paga l'IVA? Il problema rimane, no? Mentre, diciamo, le imprese ovviamente sono solo un punto di passaggio verso il consumatore finale. L'IVA è un'imposta che cade sul consumatore finale. Se io rimborso il consumatore finale, non c'è più IVA. Non c'è più IVA. Grazie. Stavo parlando con Stefano Micossi, direttore generale di Assonime, docente di economia internazionale a Bruges, delle misure che si stanno attuando per contrastare la crisi economica. Sentirei Fabio da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno, io sono Fabio. E sono interessato un po' per queste infrastrutture che dicono che bisogna farle velocemente, e i fondi, una cosa e l'altra. Io ho un campo in una zona dove devono fare questa strada, e ben venga per la viabilità e tutto. Però secondo me ci sono degli sprechi e non poco. Secondo me bisognerebbe anche vedere un po' per tamponare certi sprechi, di valutare un po' come fanno le strade e magari per... non ostacolare qualcosa, ma le allungano di qualche chilometro. Questi chilometri vanno tutti alle spese dei contribuenti, secondo me. Questo non è giusto. Grazie, mi sembra una domanda molto chiara. Allora, Bicossi, spendere va bene, ma spendere meglio forse sarebbe necessario? Diciamo che spendere meglio è molto necessario nel nostro paese. Gli sprechi e le inefficienze sono spaventosi e purtroppo sappiamo che c'è anche molta corruzione. Questo problema però, diciamo, le crisi sono sempre un buon momento per affrontare anche i problemi complicati, ma questo problema non deve diventare un ostacolo ad accelerare la spesa, e noi sappiamo che se si moltiplicano gli obiettivi poi magari non si riesce a raggiungere nell'uno o nell'altro. Io sono molto per l'efficienza della spesa, oggi mi preoccuperei di spendere. Grazie. Vittorio da Lucca, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità che mi avete dato di intervenire. Volevo chiedere al dottor Micossi una sola cosa, che secondo lui non sarebbe meglio agire dal lato della domanda, quindi stimolare i consumi, abbattendo per esempio l'IVA, un forte abbattimento sull'IVA, abbattere le accise sui consumi elettrici, sui consumi di metano e anche sulla stessa benzina, cercando di stimolare soprattutto la domanda dei consumatori, perché se noi aspettiamo l'intervento dello Stato con i tempi lunghi che ha per la costruzione di opere pubbliche, si arriverà a fare questi interventi quando la crisi è finita. Grazie. C'è un attimo un problema sulla linea di Micossi, posso provare a rispondere io? Indubbiamente sul fronte degli stimoli alla domanda, dare delle risorse, quindi abbassare i prezzi vuol dire dare la possibilità ai consumatori di spendere maggiormente, ecco, può dare un contributo positivo, però ecco, stiamo attenti al fatto che in questa fase si tratta anche di ridare appunto la fiducia alle persone, la fiducia del futuro, dare dei soldi senza costruire anche la possibilità di avere appunto delle infrastrutture migliori, dei servizi migliori, dei servizi che possano aiutare anche le imprese a crescere in competitività. Non dimentichiamo che le imprese lavorano molto per le esportazioni e quindi lavorano per la competitività internazionale. Ecco, su queste basi può riprendersi l'economia. Delle misure semplici di riduzione dell'IVA sono possibili, anzi in qualche caso auspicabili, altri paesi le hanno fatti, la Gran Bretagna approvate dei giorni scorsi, indubbiamente possono essere una misura ovviamente temporanea, ovviamente limitata, che può dare un po' di fiducia. Io vorrei chiedere adesso a Stefano Micossi, che è tornato con noi, come vede un intervento sull'IVA, non un intervento drastico di abolizione o di rimborso, ma una riduzione limitata e temporanea che potesse stimolare i consumi. Stefano Micossi. Diciamo, in generale una riduzione dell'IVA può essere una misura di sostegno dei consumi. Da questo punto di vista va notato però che noi abbiamo una fortuna nella sfortuna. Stanno scendendo molto rapidamente i prezzi delle materie alimentari, delle materie prime, del petrolio. Quindi un'azione di sostegno sui prezzi dei beni molto forte è già in atto. Il problema della manovra dell'IVA è che implica, è generalizzata. Si fa lo sconto a tutti. Anche a quelli che magari non spendono, anche a quelli che magari non sono in condizioni di disagio e che quindi sono meno portati a spendere le risorse addizionali che rendiamo loro disponibili. Allora, in un momento, tenuto conto della difficoltà del bilancio pubblico, perché noi siamo un paese con un debito molto alto, come il Ministro dell'Economia giustamente ripete un giorno sì, un giorno no, e quindi le nostre misure di sostegno devono essere fatte anche con economia di mezzi. Allora, se teniamo in mente queste due considerazioni, misure che portino immediatamente denaro nella parte più in sofferenza della popolazione, in quella che ha meno mezzi a disposizione, hanno il duplice beneficio che aiutano di più chi ha bisogno e che si traducono immediatamente in spesa. E in questo senso i provvedimenti che si stanno disegnando, a quanto io capisco, sono basati su questo concetto, vanno in questa direzione. Una riduzione generalizzata dell'IVA costa troppo e può, in una situazione di grande incertezza come quella attuale, non avere effetti ugualmente efficaci sulla spesa. Ecco, quindi il problema di fondo è quello di cercare di costruire appunto una rete di interventi che possano dare alle famiglie la possibilità immediata di spendere, le famiglie che hanno necessità di spesa. Un'ultima telefonata, Guido da Brescia. Buonasera, buongiorno. Buongiorno. Volevo solo chiedere qualcosa al professore relativamente al discorso del reperimento di fondi, perché a me sembra che quello che propone lui è ancora un rigiro di soldi che sono sostanzialmente già spesi e che quindi in qualche modo creano ricreano quel vortice di rigiro di credito che è alla base, a mio giudizio, della crisi finanziaria internazionale attuale. Non è forse il caso di trovare il modo di ridurre invece l'intermediazione, di trovare il modo di avere più facilità di investimento dei piccoli risparmiatori nelle piccole imprese, nelle medie imprese, per facilitare il credito alle imprese e diminuire il rischio, anche a mio giudizio, che c'è stato, si è dimostrato nel passaggio attraverso il credito istituzionale o delle banche in generale. Domanda appunto, la ringrazio, domanda un po' complessa, diciamo, essenzialmente come ridare credito alle piccole imprese. Stefano Micossi. Alla fine la questione è questa: i risparmiatori non sono in grado di valutare il rischio di credito delle imprese, servono degli intermediari che fanno da ponte fra la disponibilità a risparmiare e la disponibilità a prendere credito per gestire l'attività economica, per investire. E da questo non si scappa. Il ricorso diretto delle imprese al mercato della carta commerciale in paesi a mercati finanziari più sviluppati e non esclusivamente bancocentrici è effettivamente un sostituto significativo, ma nel momento di crisi poi la liquidità anche al mercato della carta commerciale la devono dare le banche. In un momento come questo alla fine la gente tiene liquidità e titoli di Stato, dunque depositi bancari e titoli di Stato. Il denaro non può che uscire dalle banche e quindi dobbiamo trovare il modo di attenuare le tensioni di liquidità che attanagliano le banche per poter attenuare la tensione incipiente di liquidità che può soffocare le imprese. Grazie a Stefano Micossi, dobbiamo fermarci qui, ringraziamo gli ascoltatori che sono stati con noi, Carmelo Laricella in regia, l'appuntamento è per domani.